sguardo riflesso lo specchio nel cielo. Nel pozzo increspa il suo velo. Come il son lontane le stelle da laggiù, e c'è di più. Oltre questo spazio. Scruto fra il grano il suo manto brillante. Un muro di luce apparente. Come son lontane le stelle da qua giù, e c'è di più. Oltre questo tempo. Voglio solo andare via. Sogno di non essere più. Voglio solo andare via. Sogno di non essere più. Fisso l'immenso da questo crinale. Immerso nel blu siderale. Come son lontane le stelle da quassù, ed è ancor più vuoto questo spazio. Stendo lo sguardo oltre la testa. Guardo col vento la vista. Come son lontane le stelle lassù, è ancor più fermo questo tempo. Non ho più forma. Non ho più corpo. Non ho più peso. Non c'è sconforto. Non ho più forma. Non ho più corpo. Non ho più peso. Non c'è sconforto. Non ho più forma. Non ho più corpo. Non ho più peso. Non c'è sconforto. Sono solo andato via. Annullato nel vuoto infinito. Il nulla mi appare finito.